look, sick look. Bevo un litro di PG, bad band come Luna Pop. Luna Pop. Baby se la via, il karma torna indietro come un hula hoop. Hula hoop. Mi serve un BMW con accanto la tua tipa che mi tira su. Tira su. Non puoi fermare la dark, non posso, non anch'io scappa via di qui. Non avere paura del buio, non sorrido a sti rapper, sono brutto in culo. Dolce vita, santo il sapore, dolce come la vanilla, gush che fumo. Se non sto in giro con la gang, branco di iena, allora non sto con nessuno. Dici che sei mio fratello e lo sarai sempre, ti sei esposto. 13 coltellate, Giulio Cesare. Dici che sei un lupo, sei una pecora, prega Dio non me quando vedi demoni. G-Star, Gucci non risolvi i miei problemi. E lo facciamo sul serio. Coca bianca come Madre Teresa. Odio invidia in sta puttana di Roma. Levarti tutto lo facciamo sul serio. Latte di suocera, puttana non piangere. Cadaveri nel fiume, era il tevere rosso sangue. Gli PC 3% abbiamo dei schietro fai. Quando muoio metto i soldi nella barra, sono ancora miei. Da Turmanascia fino a Rione Monti bevi l'acqua santa, sì. Sono romano come il fontanone, come i quattro vecchi sopra in piazza. Penso in grande, lo stavate quando stavo per ste strade. Ogni 2 secondi scatter personale, me vedevi perso ma ci hai visto male. Guardami negli occhi, non sono un figlio dei fiori, ma te rubo i sogni mentre dormi. Mentre dormi, quando stai sveglio punto sui sordi. Mentalità anni 90, pezzo di fumo, cartina larga, sì. Cervello acceso per ste quattro merde, non gliela regalo. Neanche alle loro feste, te lascio senza fiato come il latte dei suocera. Mi sta attaccato al collo come fossi una suocera. Giro in branco insieme al DPG 777. Ve rubo regali dentro alle vostre feste. E l'ho fatto sul serio, quando parli perché l'ho fatto sul serio. Non dico cazzate come quelli da bar. Io se parli perché l'ho fatto sul serio. Ancora stringo mano e guardo in faccia. Ancora il vizio di puntare gli occhi sopra la tua giacca. Che devo fare se sta merda mi rilassa? Dopo che ho fatto una vita segregato in piazza.